Allora, ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo in collegamento con una studentessa, del liceo Montessori perché il liceo Montessori ha cominciato proprio ieri un'occupazione ed è stato il primo liceo a Roma a portare avanti in questo momento questo tipo di lotta. Ciao. Ciao, buonasera a tutti, sono Francesca del Liceo Montessori e sì, appunto, noi abbiamo occupato ieri dopo settimane di mobilitazioni che hanno visto protagonisti tutti gli studenti. Di fatto all'interno della nostra scuola, nell'ultimo periodo soprattutto, ma già a partire diciamo dall'anno scorso, si è iniziato a creare un clima che non era per niente piacevole e che ha autonomamente e spontaneamente creato un grandissimo dissenso da parte degli studenti che hanno deciso di organizzarsi e di mettere in atto delle piccole forme di protesta che poi sono diventando sempre più grandi, sono arrivate a essere di fatto un'occupazione. Appunto, le questioni che più diciamo, ci infastidiscono, ci portano a, diciamo, a volerci ribellare a questa situazione sono principalmente questioni di vivibilità della scuola, vale a dire. All'interno della nostra scuola ci sta un preside che è convinto di poter gestire le cose come vuole lui e quindi continua a far passare circolari in cui viene detto che è severamente vietato alzarsi fino al suono della campanella, che non è possibile uscire dall'aula nemmeno per prendere una boccata d'aria, per sgranchirsi le gambe, che non si può andare al bagno se non durante la ricreazione. Il E famoso preside questo padrone, insomma. è esatto, il famoso preside Pradone. Che dice che la nostra aula da gestita che ci siamo conquistati con 2 anni fa un'altra occupazione che è durata più di una settimana e che ci ha visto veramente molto impegnati e realmente appunto protagonisti della scuola. Dopo appunto questa occupazione siamo riusciti a conquistarci una aula da gestita e quest'anno nel momento in cui ne abbiamo avuto bisogno l'abbiamo trovata chiusa, chiusa fino al nuovo ordine del preside, come se quella letta fosse. Pronto? Caduta la linea, siamo di nuovo in diretta. Eccomi, sì. Sto dicendo appunto come se quella letta fosse di sua proprietà e non fosse di proprietà degli studenti che l'hanno chiesta per autogestirsi all'interno di quello spazio, che di fatto è l'unico spazio all'interno della scuola di cui noi siamo in qualche modo appunto garanti, ma anche appunto le persone che possono utilizzarlo appieno, perché di fatto nella nostra scuola mancano degli spazi. Mancano degli spazi perché sia a livello diciamo fisico, ma sia perché quei piccoli spazi che potremmo avere non ci vengono concessi. Abbiamo chiesto l'apertura dell'aula autogestita anche durante la ricreazione e ci è stato vietato per problemi di sicurezza, per problemi burocratici che sentiamo e risentiamo tutti i giorni. Abbiamo chiesto anche la possibilità di fare un'assemblea all'interno della scuola, in cui si potesse parlare del referendum che tra poco vedrà protagonisti le persone maggiorenni all'interno della scuola, ma che comunque tocca tutta la componente studentesca, perché anche se siamo giovani, anche se non andremo direttamente a votare, è nostro interesse, ma anche nostro dovere informarci. E appunto Certo. questa assemblea che noi abbiamo chiesto ci è stata inizialmente concessa, poi di nuovo rifiutata, poi di nuovo concessa, poi di nuovo rifiutata, e alla fine ci è stato dato un qualcosa che però non aveva niente a che fare con quello che noi avevamo chiesto. Vale a dire, abbiamo chiesto un'assemblea, ci è stata data una lezione frontale fatta da una professoressa della scuola, in cui noi non abbiamo avuto nessun momento di dibattito, nessun momento di dialogo. E di fatto è questo il clima che si respira dentro la scuola. Ma noi studenti, attraverso tutte le mobilitazioni, tutta l'analisi che abbiamo fatto, ci siamo anche resi conto che tutto questo non è soltanto dovuto alla volontà di un preside che magari può essere autoritario e tutto quanto, ma soprattutto è imposto da un ministero, da un governo, che attraverso le riforme della buona scuola ci vuole educare a questo. Ci vuole educare a essere soltanto dei lavoratori e lo vediamo attraverso i ritmi che abbiamo a scuola, lo vediamo attraverso tutte queste proposte della buona scuola, tra le quali sicuramente l'emblema è la scuola lavoro, che sappiamo benissimo che dopo che il governo ha garantito che 10.000 studenti lavoreranno gratis per McDonald's, per la multinazionale McDonald's, appunto ci rendiamo conto che questa scuola lavoro non è nient'altro che la possibilità di garantire la possibilità di garantire lavoro non retribuito. E quindi non è un'esperienza formativa, non è niente di tutto questo, non è niente di quello che la buona scuola aveva promesso. E sappiamo che appunto questo governo, con questa riforma, appunto garantisce al preside la possibilità di fare quello che vuole, rende lo studente non più partecipante attivo della propria vita scolastica, ma semplicemente un personaggio di sfondo che deve subire quello che succede all'interno della scuola e non può essere realmente protagonista di quello che vuole fare. Ecco, noi dentro la nostra scuola vogliamo essere protagonisti, perché la scuola è il nostro spazio, la scuola è di chi la vive e chi la vive siamo noi. E proprio per questo abbiamo deciso, dopo appunto un lungo periodo di analisi, di mobilitazione, di attivarci e di occupare la scuola. Adesso ci Bene. dice, vabbè, ma la riforma è già passata, che cosa pensate di fare? Che significa? Significa che se ci sta qualcosa che non va, solo perché è definitivo o così dovrebbe essere, io devo stare fermo, zitto e buono e non posso reagire. Quello che vogliamo fare noi è reagire, avere una reazione forte che possa dare un impatto e che possa dare anche un'alternativa, perché la nostra non è solo una protesta, ma è anche una proposta, perché noi all'interno di quella scuola stiamo creando delle situazioni alternative, didattiche alternative, facciamo corsi, facciamo capire che l'educazione non è soltanto quell'indottrinamento che ci viene imposto nelle 6 ore di lezione frontale all'interno del nostro istituto. La formazione, l'educazione è anche la possibilità di autogestirsi, la possibilità di crescere, di maturare attraverso l'autoformazione. Ovviamente tutto questo non è facile, perché all'interno di una scuola con studenti che vanno dai 14 ai 18 anni non è facile organizzarsi, non sempre si va tutto d'accordo. E ovviamente ci sono persone che hanno più capacità e che sanno come gestirsi queste situazioni perché sono all'interno della scuola da più tempo, perché sono banalmente hanno sempre avuto più voglia di interessarsi, ma la cosa importante per noi è coinvolgere tutti, è far capire che tutti dobbiamo avere una voce all'interno della nostra scuola e che tutti possiamo esprimere le nostre opinioni. Bene, è diciamo, è una lotta sacrosanta. Dire che sacrosanta, diciamo, è dire poco, anche perché, vista come l'impostazione che ha dato la buona scuola, non è altro che un indottrinamento per, il lavoro. Voi siete soltanto, da impostare, poi da buttare nel mondo del lavoro, lavoro che non troverete tra l'altro, no? Ma dovete abituarvi a essere disponibili a qualsiasi stipendio, salario o da miseria, no? Questa è alla fine dei conti, l'obiettivo è questo. Esattamente questo, noi vogliamo far capire che per noi cioè, la scuola non deve essere appunto una formazione in vista del lavoro, ma deve essere una formazione in vista della crescita individuale, della possibilità di esprimerci per quello che siamo, perché non possiamo pensare soltanto in funzione di quando saremo impiegati, di quando lavoreremo come appunto impiegati salariati o chissà dove o chissà come o chissà se lavoreremo. Cos'è, Noi chissà vogliamo se, esatto. Esatto, noi vogliamo crescere per quello che siamo e poter capire veramente ciò che siamo e appunto farlo nel rispetto dei nostri diritti, perché anche se siamo giovani abbiamo dei diritti e non accettiamo il fatto che questi ci vengano tolti. Soprattutto, dovete decidere voi della vostra vita, e che questa Esattamente. è la, è la, è il primo passo verso qualsiasi tipo di, chiamiamola, scelta che voi potrete fare, o anche comunque il solo fatto di studiare è studiare, formarsi, non ha niente a che fare né col mondo del lavoro né con altre cose di questo tipo, è una crescita individuale, come dicevi tu giustamente prima, dipende da individuo a individuo. Deve essere possibile scegliere, deve essere possibile, studiare come, quando e quello che uno desidera, no? Sicuramente, infatti appunto noi ci concentriamo molto su questo e quello che proponiamo anche durante l'occupazione sono corsi che non hanno niente a che vedere con quelle materie che studiamo regolarmente a scuola. Io per esempio sto al quinto anno del liceo classico, a scuola studio il latino, il greco, la letteratura, la matematica, ma io nella mia vita ho interessi molto più ampi e perché io non posso avere la possibilità di iscrivermi anche a scuola, che è il luogo che io frequento 6 ore al giorno? Questa è la domanda che ci poniamo e per noi la risposta è: se gli spazi per esprimerci non ci danno, noi ce li prendiamo. Certo, giustamente. Io ti ringrazio tantissimo, sei stata chiarissima, estremamente esaustiva, e comunque io posso dirvi soltanto da parte di tutte noi, buona lotta. Grazie Grazie. mille anche a voi. Ciao, Grazie. Ciao. grazie.